9 in punto, la versione di Oscar. Oh, ed eccoci qua con l'inizio della settimana che ci porterà verso il Natale, lunedì 19 dicembre. Oscar Giannino saluta tutti voi, cari radioascoltatori, ancora The End, perché naturalmente purtroppo questa mattina stiamo assistendo a uno spread BTP Bund che risale al di sopra dei 500 punti. Conoscete il mio scetticismo rispetto al meccanismo europeo deciso l'8 dicembre, la notte dell'Immacolata. È un meccanismo per il quale i paesi continueranno a ballare, membri dell'euroarea, con i loro debiti sovrani, quindi gli spread continueranno a ballare. L'idea è quella che questo meccanismo induca tutti a fare le riforme che non hanno fatto per tanti anni. Intanto da noi la Camera ha approvato la prima manovra finanziaria del governo di emergenza, il governo Monti, in questo fine settimana. Si passa al Senato con l'idea di chiudere questo fine settimana prossimo per il 24, quindi per Natale. La puntata di venerdì, quella in cui abbiamo lanciato una riflessione intorno all'ipotesi di ricorrere spontaneamente, per così dire, senza aspettare che siano i mercati a travolgerci e a portarci nella dolorosa eventualità di uno spread che continua a salire all'intervento del Fondo Monetario, la puntata di venerdì in cui abbiamo lanciato quella proposta, cioè di esaminare l'ipotesi che autonomamente l'Italia, quindi senza emergenza, si ponga responsabilmente nella condizione di chiedere al Fondo Monetario Internazionale un prestito straordinario. Come avete visto, o meglio, se qualcuno di voi l'ha visto, altrimenti ve lo sto richiamando, è stata sostenuta in questo fine settimana anche da Marty Feldstein, che per me è un maestro della mia scuola, che ha detto: per come sta messo l'edificio europeo, difficile che i mercati possano immaginare che la mancanza di un meccanismo cooperativo europeo a sostegno dei debiti dei paesi più deboli, quelli che ballano di più, possa indurre i mercati a non continuare a scommettere sugli spread elevati. In questo caso, piuttosto che aspettare una crisi altrimenti inevitabile o difficilmente non immaginabile, sarebbe meglio che i maggiori tra loro capissero che sedersi autonomamente al tavolo del Fondo Monetario Internazionale può risparmiare molti problemi. Ma fine del brevissimo accenno europeo, perché il tema della puntata di oggi è un altro, come avete sentito dal nostro lancio. La cosa più significativa è stata ieri la reazione che da parte tedesca è venuta alle parole del direttore, o meglio della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, colei che è succeduta a Dominique Strauss-Kahn per lo scandalo che ha coinvolto il precedente capo del Fondo Monetario Internazionale. E Christine Lagarde ha accentuato molto i toni dell'allarme da parte del Fondo Monetario Internazionale, come a dire anch'ella che nel compromesso europeo non ci sono le basi perché i mercati possano fermarsi, e i toni di grande allarme che ha usato, che fanno sottintendere quindi la necessità di un intervento del Fondo Monetario, hanno molto irritato alcuni ambienti tedeschi. Ieri per esempio la Frankfurter Allgemeine ha pubblicato un editoriale in cui i toni che si usavano nei confronti di Christine Lagarde erano molto duri, come a dire: non ci si metta per favore anche il fondo a drammatizzare le cose, perché l'Europa ha un buon compromesso e bisogna procedere sulla via dell'adozione delle misure adottate, indicate con via intergovernativa e non più comunitaria, l'8 dicembre scorso. Questo solo per tenere da sfondo il mercato, che anche oggi appunto vede uno spread sopra i 500 punti, ma la giornata di oggi l'abbiamo deciso di dedicarla a un'occasione del tutto diversa, perché vogliamo utilizzare proprio questo sfondo preoccupante, purtroppo, della crisi dell'euroarea e del nostro paese in questa crisi, per una riflessione alla quale ci induce un libro straordinario, una testimonianza pubblica straordinaria. L'ho detto e ve lo ripeto, il titolo di questo libro, che è scritto dal procuratore nazionale di mafia Pietro Grasso insieme a Enrico Bellavia, che è un collega di Repubblica, il titolo di questo libro è Soldi sporchi, il sottotitolo esplicativo è molto chiaro: come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale. L'editore è Dalai, e vi posso garantire che queste 355 pagine valgono assolutamente la pena. Non so quanti di voi siano degli appassionati ascoltatori o lettori delle vicende che purtroppo da decenni contrassegnano le cronache giudiziarie del nostro paese. Quello che è certo è che questa è una sintesi molto efficace e che colpisce per la durezza dei numeri e per l'estensione del fenomeno, di come i proventi dell'industria delle grandi criminalità, delle mafie italiane e di quelle internazionali, nel mondo globalizzato il fenomeno è assolutamente transnazionale, abbiano proprio in questi anni di crisi una occasione straordinaria, perché è evidente che in presenza di crisi di liquidità del sistema bancario, di capitale corto da parte delle imprese, particolarmente in un paese in cui sono tradizionalmente sottocapitalizzate, sottopatrimonializzate come nel nostro paese, e quando ci sono fenomeni di credit crunch, ecco che a questo punto colui che ha accumulato ingentissimi patrimoni attraverso il malaffare, i grandi fenomeni della criminalità, dalle droghe all'estorsione, agli appalti manomessi per via della corruzione con la politica, trova un'occasione straordinaria per prendere nuove imprese, per entrare addirittura nelle banche. E prima di presentarvi gli ospiti che ci hanno raggiunto, vi leggo solo l'ultima di copertina di questo libro per indurvi a riflettere sulle proporzioni di questo fenomeno spaventoso. Leggo: in Italia ogni giorno, il procuratore Pietro Grasso a parlare insieme al suo coautore Enrico Bellavia, l'industria del riciclaggio produce 410 milioni di euro, 17 milioni l'ora, 285 mila euro al minuto, 4.750 euro al secondo. La Banca d'Italia stima che rappresenti da sola il 10% del PIL, attestandosi di poco sopra i 1.500 miliardi di euro. Con un fatturato di 150 miliardi, la holding del riciclaggio è la prima azienda del paese, davanti a un colosso come l'ENI, Unicredit e Intesa San Paolo. Ecco, stiamo parlando di questo fenomeno, ed è un fenomeno rispetto al quale voglio cominciare, prima di presentarvi e dare la parola ai nostri ospiti, un'altra riflessione che trovate all'inizio, nelle prime pagine del volume. Stiamo parlando appunto dell'effetto che si può creare in questi anni di crisi, e il procuratore Grasso cita l'ultima relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza presentata dal governo, il governo precedente, al Parlamento. E le parole testuali sono queste: nel mezzo di una fase di forte recessione economica, condizione di per sé propizia per le attività di usura e di riciclaggio, un'ulteriore prospettiva di rischio è rappresentata dalla possibilità che i profitti derivanti da traffici illeciti gestiti dalle organizzazioni criminali possano confluire nei capitali sociali di istituti di credito in via di costituzione. Insomma, gli stessi servizi, gli apparati di sicurezza del nostro paese avvertono che sulla scena potrebbero comparire nuove banche di mafia. Ecco, su questo fenomeno, nella sua descrizione, nella estesa purtroppo rete di complicità, connivenze e problemi aperti che il fenomeno del riciclaggio apre in tutti i settori dell'economia italiana, perché tenteremo di ragionare insieme su cosa bisogna fare di più, perché dal basso ovviamente venga la giusta reazione, perché qui sono coinvolti professionisti, sono coinvolti imprenditori, sono coinvolti finanzieri, sono coinvolti colletti bianchi, ed è da questo che bisogna partire. Poi bisogna aggiungerci una riflessione su ciò che bisogna aggiungere modificando l'ordinamento nella possibilità tecnica e di indagine, di intervento, di sequestro delle forze della magistratura ovviamente, e delle forze di polizia giudiziaria che rispondono alla magistratura, per vedere come modificare meglio un ordinamento che purtroppo in questi anni non ha ratificato molti strumenti internazionali e convenzioni che servirebbero invece per rendere più efficace la rete di prevenzione e la rete di repressione italiana, ma che deve avere degli strumenti internazionali, visto che il fenomeno è potentemente connesso a livello internazionale. E poi, terza cosa, oltre alla profondità dei coinvolgimenti nella società italiana, nell'economia italiana, e oltre alla riflessione su come migliorare il nostro ordinamento, c'è anche poi una riflessione di fondo da fare sulla legalità del nostro paese, prendendo appunto lo spunto da questo libro Soldi Sporchi. E io ringrazio e saluto intanto i due autori che sono con noi, perché il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso è seduto qui con me a fianco nello studio di Roma. Buongiorno procuratore. Buongiorno a tutti. E abbiamo con noi collegato poi Enrico Bellavia, il coautore, giornalista di Repubblica. Grazie anche a te, buongiorno Enrico. Buongiorno, grazie a voi. Allora, procuratore, posso innanzitutto esordire in questa prima parte, dedichiamolo a far capire un po' il fenomeno a chi non è un esperto. I numeri certo sono molto impressionanti, e dall'altra parte mi inducono a ritenere che se sono così impressionanti e ci sono così noti, perché poi le richiama a fonti aperte, fonti pubbliche, non è che si tratti di rivelare molto. In questo libro naturalmente c'è l'aggiunta di molti riferimenti a indagini di questi anni da nord al sud, che danno l'idea in realtà di come poi i magistrati siano sopra al fenomeno, però i numeri che vengono citati sono in realtà noti. Se i numeri sono così noti e sono così terribili, perché, come vedremo più avanti, alla fine le risposte dell'ordinamento sono rimaste indietro? Che cos'è che manca di consapevolezza per mettervi nelle condizioni di fare di più, di fare meglio? Allora, innanzitutto i numeri vanno completati con i numeri dell'evasione fiscale, che secondo uno studio di Confindustria ammonta l'imponibile che si sottrae al fisco ammonta a 270 miliardi di euro, il che significa circa 100-120 miliardi di euro che il fisco non incassa, e di questi 40 miliardi sono imputabili all'IVA. E inoltre ci sono altre cifre che sono quelle sulla corruzione, che ci sono state date da Transparency International, un famoso istituto di ricerca sul tema, che ammontano a circa 50-60 miliardi di euro l'anno in Italia. Quindi questi costi li dobbiamo sommare a quelli della criminalità organizzata, che ammontano 180-200 miliardi di euro secondo tanti istituti di ricerca, e abbiamo che un terzo dell'economia nazionale è sommersa, non esiste, e quindi non produce nulla, né sotto il profilo dello sviluppo, né sotto il profilo dell'imposizione fiscale, né sotto il profilo del contributo che tutte gli organismi, le società, i cittadini che operano in Italia devono dare per poter dare i mezzi allo Stato per provvedere a tutti i bisogni essenziali dello Stato. Quindi questo libro nasce proprio da questa sensazione drammatica di ingiustizia sociale, di mancanza di equità contributiva, fiscale, e proprio per questa mancanza che poi ricade sulle spalle dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che devono sopperire, soprattutto in questo periodo di crisi economica, di probabile recessione, a fare dei sacrifici ulteriori per cercare almeno il pareggio di bilancio. Ma se noi pensiamo che il pareggio di bilancio lo raggiungiamo con 38,5 miliardi di euro, e pensate come basterebbe risolvere uno di questi piccoli problemi, corruzione, evasione fiscale o maggiore, anche se devo dire l'aggressione alla criminalità organizzata e la sottrazione di beni alla criminalità organizzata oggi ha raggiunto dei livelli di eccezionalità sotto questo profilo. Quindi dico, però, se si potesse agire anche sugli altri campi e con altri strumenti, certamente, certamente i cittadini non subirebbero oggi queste lacrime e sangue che sono a gran voce richieste. Allora, ricordiamo a chi è a casa, nel nostro ordinamento si prevede che per segnalare le attività, le operazioni finanziarie che possano apparire, avere il sentore, il cattivo odore del riciclaggio, uno degli strumenti fondamentali sono le segnalazioni che dall'interno stesso del mondo finanziario vanno all'UIF, all'unità di investigazione finanziaria che è costituita presso la Banca d'Italia. Però nell'andare a vedere come sono andate queste informazioni nel tempo, noi vediamo che hanno avuto un incremento costante, testimoniano gli autori di questo libro. Siamo passati dalle 12.500 del 2007 alle 37.000 del 2010, però c'è un piccolo problema: la stragrandissima maggioranza di queste segnalazioni viene appunto dal mondo delle banche. Però se dovessimo giudicare dai numeri delle segnalazioni che vengono dal mondo di tutte le altre professioni che inevitabilmente hanno a che fare con operazioni finanziarie e che quindi dovrebbero essere in condizioni di capire, sospettare che c'è qualcosa che non va, ecco, le segnalazioni che vengono da questa parte del mondo economico sono un numero limitatissimo. A me ha molto colpito perché sono solo 223 su 37.000 i casi che arrivano segnalati da professionisti. Per la precisione, ci dice il procuratore Grasso insieme a Enrico Bellavia, 69 sono le segnalazioni dai notai, 28 quelle dei dottori commercialisti, 10 di ragionieri e periti commerciali, 7 di revisori contabili, 3 di avvocati. I dati vanno aggiornati rispetto a quando abbiamo scritto. Questo sono del 2009. Rispetto a quando abbiamo scritto il libro. Oggi siamo a circa 44.000 segnalazioni e operazioni sospette, però la percentuale è rimasta identica perché sono circa 400 le segnalazioni dei professionisti. Ma come mai? Perché cos'è il meccanismo della paura o connivenza? No, il professionista perde il cliente nel momento in cui lo denuncia l'operazione. È evidente questo. E quindi occorre che tutto un sistema si muova in una perfetta legalità. Poi dobbiamo anche dire che questo aumento così esponenziale delle segnalazioni ha prodotto un effetto negativo, nel senso che le persone addette ai controlli hanno maggior lavoro e quindi riescono a cogliere magari meno fenomeni di trasgressione. E bisogna anche dire che da queste segnalazioni di operazioni sospette circa il 14-20% si produce dopo le indagini per approfondire l'operazione in evasioni fiscali, in fatti amministrativi, non fatti penali. Cioè, no, la percentuale che poi transita alle procure della Repubblica o alle indagini sulla criminalità organizzata è veramente minima, nel senso che pochissimi sono i processi di riciclaggio che nascono dalle segnalazioni di operazioni sospette. Quindi tutto il sistema, tutta la prevenzione che è organizzata per cercare di prevenire il fenomeno, alla fine partorisce il topolino che insomma, rispetto al fenomeno appunto non può dare alcun risultato utile. Questa è la... E quindi occorre cambiare sistema, occorre anziché far ricorso alle segnalazioni che richiedono sempre una collaborazione da parte di altri, secondo me bisogna un po' invertire. È una cosa che si sta facendo col nuovo governo, per esempio, di trasferire all'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda certamente l'evasione fiscale, e tutti i flussi degli intermediari finanziari, in maniera da poter avere il controllo dei flussi finanziari. Però c'è un'altra considerazione, che la criminalità organizzata non sempre utilizza gli intermediari finanziari, diciamo le banche, per capirci. Certo. E allora, perché? Perché quando le utilizza si accerta che ha di avere all'interno una persona, un funzionario infedele che gli faccia fare l'operazione. Tutte le volte che abbiamo scoperto qualcosa dentro le banche è perché c'è qualcuno infedele che compie le operazioni e anche spesso il suo tornaconto. Quindi è questa forma di corruzione privata che nel nostro sistema non è punita, che forse avrebbe bisogno di un'ulteriore attenzione. Posso chiedere una cosa, Enrico Bellavia, dal tuo punto di vista? Un'altra cosa che mi ha colpito sono state le parole che citate nel vostro libro, sono le parole di Antonio Maria Costa, che è stato per molti anni alle Nazioni Unite direttore dell'Ufficio della Droga e il Crimine. e c'è una sua relazione, una relazione relativa appunto al rilievo, all'importanza che i flussi riciclati delle grandi mafie internazionali hanno avuto nel grande capitale mondiale dopo il 2008, il crack bancario di Lehman, e le sue parole testuali sono queste: durante la seconda metà del 2008 la mancanza di liquidità è stato il principale problema del sistema bancario, il capitale disponibile è diventato un fattore fondamentale, crediti interbancari sono stati finanziati grazie a fondi provenienti dal traffico di droga e da altre attività illegali, e numerose banche sono state salvate in questo modo. È una circostanza temporale purtroppo analoga a quella che viviamo da qualche mese a questa parte nell'euroarea, per come sono corte di capitale le banche. Quello che chiedo a Enrico Bellavia è, prendendo il fenomeno in mano insieme al procuratore, come avete fatto per questo libro, hai l'impressione che l'Italia sia parte di un problema mondiale? L'Italia ha un problema molto più grave perché c'ha le mafie da sempre proprie, oppure in realtà oramai la rete delle connivenze è tali a livello globale nella finanza transnazionale, dal tuo punto di vista, che è una battaglia da condurre, ma è una battaglia di retroguardia rispetto alle enormi possibilità che la finanza telematizzata dà oggi nella concorrenza tra ordinamenti? È ovvio che ci sono ordinamenti dove lo vedremo ancora meglio dal punto di vista societario, fiscale, gli obblighi, i controlli e l'opacità sono molto diverse da quelle dei paesi avanzati, o meglio dal più dei paesi avanzati. Come la pensi? È una battaglia che si può fare o una battaglia persa, Enrico? È una battaglia che si deve assolutamente combattere. Per rimanere alla tua classifica, direttore, direi tra la seconda e la terza. L'Italia ha il male, ha anche individuato, grazie all'esperienza dei magistrati, degli investigatori, degli attenti analisti, anche la cura. Stenta, diciamo, nel farsela prescrivere, nel trovare gli strumenti legislativi adeguati per aggredire un fenomeno che mette a repentaglio la vita di tutti. Facevi riferimento tu all'allarme di Costa. Bene, quell'allarme è sostanzialmente passato sotto silenzio. Lui ha detto, a fronte di debiti per 1.400 miliardi di dollari circa, una boccata d'ossigeno sarebbe arrivata dai 350 miliardi di narcodollari. Dunque è come dire che il denaro della droga ha tenuto in vita in qualche modo il sistema. Questo è un rischio col quale facciamo i conti ogni giorno a fronte delle cifre che richiamavate voi da studio prima, e che falsa le regole del libero mercato. È ben strano che in una economia che si dice libera non ci si confronti con il rischio e il condizionamento fortissimo che le mafie esercitano nell'andamento degli affari, disponendo di una liquidità immensa che viene in soccorso dell'economia e la stravolge. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, ma faccio da subito una domanda di cui chiedo prima una sintetica risposta a Enrico e poi al procuratore, perché se andiamo a vedere gli organi, gli strumenti internazionali che non sono stati ratificati negli ultimi anni dal Parlamento italiano, per iniziativa concorrente anche del governo, che non hanno naturalmente indotto, sostenuto, incalzato il Parlamento in questo, la lista di questi strumenti che viene puntualmente ripercorsa nel libro è una lista molto pesante. E allora la domanda che io faccio di fronte al fatto che noi non abbiamo adottato la convenzione di diritto penale sulla corruzione, la convenzione per l'assistenza giudiziaria tra stati membri dell'Unione Europea, la convenzione del Consiglio Europeo d'Europa sul riciclaggio, controllo, sequestro e confisca dei proventi del reato e sul finanziamento di terrorismo internazionale, la domanda che faccio prima a Enrico, che naturalmente è più libero di esprimere giudizi, ma è un problema in cui è pesata molto la politica dei governi degli ultimi anni, oppure che cos'è? Distrazione del Parlamento? E poi la stessa domanda la faremo al procuratore, naturalmente è Grasso. Eccoci qui tornati per la seconda parte della trasmissione. Allora, ci eravamo lasciati su una domanda, prima sentiamo che ne pensa Enrico Bellavia, se nel ritardo dell'adozione di tutti questi strumenti internazionali c'è stato, dal suo punto di vista, un problema politico relativo al colore del governo, oppure proprio che l'Italia in questo c'ha un vischio, per così dire, istituzionale, per cui non riesce a mettersi in condizione di dare il meglio, perché significa più rapide cooperazioni delle diverse magistrature, significa minori ostacoli alle rogatorie, significa cose concrete per essere più efficaci nella lotta alle grandi reti criminali. Ma perché secondo te questo ritardo? Ma c'è stata un'impostazione, diciamo, nella lotta alla mafia dal punto di vista dei governi assolutamente miope, quando non colpevole o connivente. si è ricercato il successo immediato, il risultato che facesse botteghino, la cattura del latitante, piuttosto che una quotidiana azione di contrasto a quelli che erano i capitali sporchi. L'allarme non è di queste ore, non è di questi anni. Mi è capitato in questi giorni di rimettermi in mano alcuni testi di Giovanni Falcone, e nel libro teniamo questo filo, vuoi perché è il faro che ha orientato l'azione della magistratura negli ultimi 20 anni, vuoi perché Pietro Grasso ha lavorato con Giovanni Falcone. Bene, l'allarme di Giovanni Falcone rimonta agli anni 80 e aveva ben chiaro quale fosse la sfida che doveva presiedere all'azione antimafia. Sul fronte del contrasto ai capitali sporchi si è fatto molto poco dal punto di vista degli interventi legislativi, ci si è concentrati molto sull'azione repressiva, che è pure molto importante. I governi se la sono fatturata come se la cattura dei latitanti fosse opera dei ministri, è frutto e azione del lavoro sporco, quotidiano, difficile, difficoltoso di magistrati e investigatori che sul campo, avendo a disposizione peraltro pochi mezzi, riescono a portare a casa la cattura del boss di turno. Poi inizia l'azione di contrasto alle fortune che questi boss hanno accumulato. Sul fronte delle misure patrimoniali si è fatto parecchio, ma i numeri sono ancora a livello di spiccioli delle grandi organizzazioni criminali, mentre la massa di denaro liquido, quella è difficile da intercettare, e lo è ancora di più quando appunto non si ratificano i trattati internazionali. Procuratore, in questo ritardo, chiamiamolo così, che tipo di... È chiaro che lei deve parlare avendo delle responsabilità istituzionali, non si può pretendere che dia dei giudizi, però siccome il giudizio tagliente a volte li dà, che impressione ha avuto in questi anni? Quanto ha pesato la politica e quanto l'opacità e il rischio istituzionale in questo ritardo? Noi all'estero abbiamo un grosso know-how riconosciuto come lotta alla criminalità organizzata, ma purtroppo non siamo riusciti a portare questo know-how a livelli di diffusione e di compartecipazione, per cui si è creato una sorta di isolamento anche dopo aver convinto gli organismi europei della bontà delle nostre dei nostri strumenti di lotta, poi dopo che li hanno adottati noi non li abbiamo ratificati, per cui siamo in una forma di isolamento a livello europeo nella reciprocità degli strumenti da adottare. Che vale che a livello interno lo possiamo fare, se poi ormai le strategie delle grosse criminalità è di portare gli investimenti e i beni all'estero, proprio perché in Italia c'è una forte repressione sotto questo profilo, il che significa creare la possibilità di stati rifugio dei beni, di stati rifugio dei grossi latitanti, proprio per questa mancanza di reciprocità e quindi di ottenere una forma di cooperazione giudiziaria valida. E poi da anni ormai gridiamo per ottenere la punizione dell'autoriciclaggio. Cos'è? Magari gli ascoltatori non, questa parola magica dell'autoriciclaggio è molto semplice, che nel nostro ordinamento non è punibile chi commette un reato e poi i soldi che vengono da quel reato li va a nascondere. Può essere punito solo per il reato, quindi io faccio una rapina, cioè i soldi della rapina, beh, se me li spendo, ma se li vado a nascondere non sono punibile per quest'ulteriore attività. Quasi tutti i paesi del mondo e d'Europa ormai lo prevedono come un'ulteriore attività che mette in crisi, inquina l'economia proprio per gli investimenti nell'economia lecita. E allora perché non si può ottenere questo anche in Italia? Ma questo è soltanto uno dei tanti motivi che ci spingono sempre di più a cercare di ottenere questi strumenti. Oggi tutte le criminalità organizzate usano le tecnologie, la globalizzazione ha fatto crollare i muri, le frontiere, e noi ancora stiamo lì a contrastare con le sovranità degli stati, con le leggi. Oggi avremo bisogno di indagini patrimoniali ad alta tecnologia, abbiamo bisogno di un raccordo informativo, per esempio tra la Procura Nazionale Antimafia. La fermo su questo, perché questo è un punto abbastanza delicato, per così dire, nel senso che gli ascoltatori di questa trasmissione sanno che io, insomma, a volte sono parecchio scettico sul fatto che si possa pensare a un paese in cui, per esempio, aboliamo la concorrenza tra ordinamenti. Cioè, ci saranno, ed è inevitabile nella globalizzazione, sempre paesi che hanno adempimenti societari, fiscali, eccetera, eccetera, diversi da quelli, diciamo, di paesi ad alta imposizione fiscale e tendenzialmente almeno ad alta trasparenza e ad alta capacità di controllo da parte della magistratura. Cioè, sono paesi che fanno un'altra scelta. Allora, primo, e questo secondo me non si può facilmente abbattere. Lei, per esempio, nel libro è molto polemico perché dice la lista nera dei paesi, eccetera, eccetera. Paradisi fiscali. Ecco, la lista nera è vuota, vuol dire che naturalmente l'accordo internazionale è quello a chiudere un occhio sul fatto che, voi dite, ci sono molti paesi in cui invece gli adempimenti restano totalmente non in linea col fatto che la lista nera l'abbiamo svuotata. A un certo punto dite, per esempio, la Gran Bretagna, e la Gran Bretagna è un po' troppo garantista. Stiamo parlando della Gran Bretagna, mica delle isole Cayman. Seconda cosa, per così le consento di fare il ragionamento complessivo, proprio quella che stava toccando lei, quella del pieno accesso a tutte le possibili banche dati, per così dire, no? Io considero paradossale, per esempio, che quello che il dottor Befera può fare con l'amministrazione tributaria, cioè il pieno accesso a tutte le banche dati, voi possiate farlo, ma in realtà abbiate un passaggio autorizzatorio che lui non ha, per così dire, e questo è chiaramente un po' paradossale. Però, serve davvero arrivare al mondo un po' orwelliano in cui lo Stato deve sapere di ogni mia minima cifra, di qualunque ammontare, ogni transazione, ed è quello così decisivo per consentirvi davvero di fare il vostro mestiere su questo che, lo ammetto, è uno dei primi assolutamente più gravi terreni in cui bisogna cambiare aria in questo paese, visto il peso che ha? Ci vuole questo, secondo lei? Beh, io rispondo con una domanda, ma questa libertà che si è avuta finora e questa mancanza di controllo, a cosa ha portato? Alla situazione attuale di crisi economica, di recessione verso cui andiamo. Allora, se non c'è, è difficile che ci sia un'etica del denaro, un'etica dell'economia, un'etica dell'imprenditoria, un'etica del cittadino. Ormai abbiamo avuto un paese che ha fatto degli sgravi fiscali la propria politica anche elettorale per ottenere consenso. La mancanza di ICI alla prima casa è un fatto unico in Italia. Tutto il mondo tassa innanzitutto la prima casa. Il fatto di averne fatto una bandiera autorizza il fatto di fare continui condoni fiscali, il fatto di avere uno scudo fiscale con delle percentuali risibili di pagamento per far ritornare i capitali, mentre tutti gli altri paesi hanno fatto ben altre manovre. Tutto questo autorizza all'agire dei furbetti che finora ha caratterizzato l'Italia. E autorizza anche a dire che a giustificare che senza pagare qualcosa io resto fuori dal mercato. Allora, finché non si comprende anche da parte degli imprenditori che questo inquina la loro economia, allora preferiscono una competizione, un mercato nella tangente o un mercato libero? No, ma questo allora, permette Confindustria in questi anni, dal basso, esatto, partendo dalla Sicilia, proprio per eccetera, questo, perché siamo perfettamente in linea sotto esatto, questo. Però io le faccio una domanda a Enrico e poi di nuovo al procuratore. Io capisco pure, e anzi sono il primo che mi incazzo, perdonate, uso un termine, cioè andiamo al di là dell'intervista troppo. Quando leggo, i mondi diversi hanno la medesima esigenza, i mafiosi nascondere i patrimoni, gli imprenditori di evadere e occultare i guadagni in nero. E diciamo, l'imprenditore, il piccolo, medio imprenditore, la microimpresa italiana familiare, eccetera, vistasi accomunare così brutalmente al fatto di avere la convergenza di interessi con la mafia. La mafia nasconde i patrimoni, gli imprenditori evadono e occultano. Piglia sto libro e lo butta alla finestra, perché dice, ma come vi permettete? Perdonate, sono esplicito, ma perché sono sicuro di parlare a nome di me. Ecco, allora voglio dire, poi si rischia di fare l'autogol, Enrico, no? Si rischia di fare l'autogol con le generalizzazioni troppo semplicistiche, ma si rischia anche l'autogol con il buonismo imperante, cioè dobbiamo smetterla. L'imprenditoria ha dentro, sì, germi di rivolta importanti, ma l'imprenditoria non è una verginella. L'imprenditoria, no, certo, soprattutto in alcune regioni del sud, e il contagio è arrivato presto al nord ed è già materia di oggi, forse di ieri, l'imprenditoria è scesa a patti con le organizzazioni criminali, un imprenditore protetto dalla mafia si autofinanzia senza pagare alcun costo, evade le tasse, ha una serie di opportunità sul mercato che gli consentono di sbaragliare facilmente la concorrenza. La abolisce. Bene, questa rete di connivenza non è più tollerabile e non è più mascherabile con poveretto è stato costretto ad evadere perché c'era una pressione fiscale troppo forte. Dietro l'evasione fiscale si mimetizzano meccanismi e rapporti di connivenza con le organizzazioni criminali, soprattutto in regione a forte presenza criminale. Ma la questione riguarda anche il nord, non si spiega altrimenti come imprenditori milanesi, lombardi, doc siano scesi a patti comodamente con l'andrangheta calabrese trapiantata al nord, abbiano prosperato fino a quando non è arrivata la stangata giudiziaria. Procuratore, però io resto col dubbio che, che si costruisce meglio lotta con il consenso a chi non è che solo si ribella al pizzo, inizia a cacciare la gente che non collabora con i magistrati. Guardi che noi abbiamo un'indagine di Confindustria che ci ha portato a queste considerazioni, quindi non è che addirittura hanno fatto, io non ho qui i dati perché non li ho con me, però è la stessa indagine che ha fatto calcolare in 270 miliardi l'imponibile, la stessa indagine poi insieme a dati Istat ha approfondito l'analisi e ha visto come soprattutto le piccole e medie imprese riescono a evadere. Naturalmente quelle, ci sono quelli evasori totali e sono spesso i più grossi evasori sono quelli totali, poi le piccole e medie imprese riescono con vari sistemi ad evadere, e così come i professionisti, così come chi può evadere evade, cioè questo è il problema, è un problema di subcultura, non vorrei definirlo una cultura, ma la subcultura che chi può frega. Allora, se noi non invertiamo questo concetto, è difficile, perché la giustificazione finora qual è stata? Io mi rendo conto che i soldi che do allo Stato sono impiegati male e quindi un'autogiustificazione me li conservo. Lo Stato me ne chiede anche tanti. D'accordo, ma ne chiede anche tanti perché ne ha da meno persone, se un terzo dell'economia non contribuisce è chiaro che ne deve chiedere tanti per arrivare a bilancio, il bilancio è qualcosa che deve pareggiare o no? Aspetti che adesso lo fermo perché abbiamo il minuto dell'informazione stradale e poi riprendiamo esattamente da dove si è fermato. E mentre riparte lenta e bassa di Andy Dorsey, eravamo con Pietro Grasso sul fatto che appunto serva spogliarsi di ogni tutela di privacy per affrontare meglio questi fenomeni. Io dico questo, che la valutazione finora del sommerso come risposta all'eccessiva pressione fiscale, cui corrispondeva poi una spesa pubblica sprecona e comunque non condivisa, e nonché secondo una speciosa teoria una risorsa per il paese che il piccolo imprenditore attraverso l'investimento da parte delle imprese delle somme sottratte al fisco e quindi comunque un beneficio, questa oggi non è più proponibile. Oggi, mentre si profila il rischio recessione, la gente nella maggioranza, pensiamo di interpretare questo pensiero, non è più disposta a essere compiacente o tollerante verso l'evasione fiscale, la corruzione, i profitti illeciti della criminalità organizzata, e quindi si percepisce con più immediatezza questa convinzione pubblica che l'evasione, ma anche quella minuta, anche quella dello scontrino fiscale, anche quello della ricevuta da dare al medico, tutte queste forme sono forme di parassitismo sociale. E quindi il clima io penso che debba cambiare, proprio perché il governo sembra che faccia sul serio anche sulla spesa, perché la gente oggi non ce la fa più. Quindi siamo in un momento storico particolare, un momento in cui forse tutti noi abbiamo una voglia incredibile di aria nuova, di staccarci da questa patina di italianità promiscua tra furberie, piccole truffe da cabotaggio, che poi si ritorce sempre contro noi e contro tutto il paese. La voglia di cose semplici e chiare che siano alla portata di una società moderna, che esiste in altri paesi dell'Europa. Esiste il rigore e la severità sia nella spesa sia nell'imposizione fiscale. Questo penso che è quello a cui aspichiamo tutti. Potrebbe dirmi in 20 secondi, pensa che entriamo in una fase di minori polemiche tra politica e giustizia, magistratura? Ma io penso che già ci siamo e quindi spero che continuiamo sotto questo, posso su questa dire strada. Che voglio sperare di condividere questo appello, perché credo che quella sia stata una delle cose che questi anni ci ha più spiazzato rispetto a tutti i temi di cui noi parliamo. Abbiamo subito dal precedente governo la manovra con una, un contributo di solidarietà del 10% sopra gli stipendi sopra i 150.000 euro, quindi già l'abbiamo avuta. Non facevo questione di stipendio, questione ordinamentale, sì, ma io, di contrasto, senza dubbio, ma per dire che era espressione già di un. E comunque non comprendiamo perché non ci sia stata un'equità, nel senso di mettere questo contributo anche ai privati, non comprendiamo. Chiarissimo. Allora, guardate, il libro si chiama Soldi Sporchi, come le mafie riciclano miliardi, inquinano l'economia mondiale, da Lei Editore, insieme a Enrico Bellavia di Repubblica, il procuratore Pietro Grasso, che è stato qui con noi. Io sono uno che continuerà a difendere naturalmente i diritti dell'individuo, e credo che gli ordinamenti siano fatti per darmi gli strumenti per difendermi dalle accuse ingiuste. Detto questo, questa è una piaga rispetto alla quale noi dobbiamo essere grati e dobbiamo dare gli strumenti che i magistrati chiedono, questo non c'è alcun dubbio. Grazie al procuratore, grazie a Enrico Bellavia, a domani. 9 in punto.